Io sono un giornalista che vale $250 la settimana. So manovrare notizie grosse e piccole. Se notizie non ci sono, so lavorare di fantasia. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il PD per riportarlo dal 41 al 25%. Non consentiremo di fare del PD il partito dei reduci. Saremo il partito del futuro e dei pionieri, valorizzando la memoria del nostro popolo, ma la memoria senza speranza è per il Museo delle Cere, non per l'Italia del domani. Ecco, poi Renzi parla del Museo delle Cere e mette un po' tutti a tacere. Ecco, così mi è venuta pure la rima baciata, vecchio. Perché un po' è così, adesso non si tratta di capire o di essere pro o contro il Renzi di governo, poi dal punto di vista del governo vedremo. Ma insomma, quando parla a questa carta vincente che tira fuori, cioè io sono il nuovo e voi siete reduci del Museo delle Cere. Un po' tutti i torti non ce l'ha, ecco, da questo punto di vista. Un po' tutti i torti non li ha. Buongiorno a tutti, sono le 6:30 minuti e questo è 24 mattino. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia e ufficialmente possiamo dire che la 78esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province può iniziare e sarà decisiva? E chi lo sa? Staremo a vedere. Intanto apriamo al Parlamento, va. Forza. Adesso apriamo. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Ah, la Boschi col chiodo alla Leopolda. Peter Bescapè è una sfinge. Ho detto la Boschi col chiodo alla Leopolda. Ecco, adesso un sorriso finalmente lo illumina in regia. Ecco. Che dobbiamo fare? Voglio presentare intanto un uomo che mette il gettone del telefono per aprire la sbarra di Mediaset, vale a dire Federico Novella, buongiorno. Eccoci, ebbene sì. Tu usi ancora il gettone del telefono, eh? Io metto il gettone anche nello smartphone, io ho ingoiato un pensionato, è proprio così. Federico Novella, un uomo che è un reduce, bella sta storia di reduce e pionieri, mi ricorda cowboy e indiani. Intanto, caro Federico, vogliamo subito gettare un po' di invidia a tutti noi, perché voglio salutare Chicco Testa. Buongiorno, caro Chicco. Buongiorno. Anzi, io so già dove sei, voi dovete dire buonasera. Dov'è Chicco Testa? Buonanotte. Dove sei? Sono a Miami, non fa inutile che facciate contenti di vari natura e genere, perché domani mattina alle 8:15 c'ho il pullman che mi aspetta qui davanti, insieme agli altri colleghi, per andare in azienda. Il pullman in azienda, cosa fai? Sì, esatto, quelle robe lì, sì, c'è un'azienda con cui lavoriamo, quindi sono qua 40 persone da lunedì a giovedì. Ah, col pullman in riunione in azienda, il posto fisso praticamente, cioè. Esatto. c'ha il posto fisso, caro Chicco Testa. Hai sentito, Novella è a Miami, ma... Io invece sono a Colonia, ho vista tangenziale. Sì, esatto, io sono a Milano, io sono a Boca Raton, dove fanno anche un gran torneo di tennis. Lo fanno ancora il torneo di Boca Raton? Ma chi lo sa, poi c'è, non lo so. Ma quanti gradi ci sono a Miami? Una trentina, ovviamente, durante il giorno. Così, una trentina di gradi, vabbè. Senti, l'acqua è ancora calda. Se l'acqua è calda. Ecco, va bene, insomma, quindi il bagno è stato fatto anche a Miami. Sto deprimendo. Ti stai deprimendo, sì. Tu c'hai una vasca da bagno a Mediaset che ti aspetta, non lo so. Sì, però diciamo non ci sono 30 gradi. Vabbè, ma Chicco Testa, che cosa dicono della Leopolda a Miami? Io non dico niente, però certo, anche io mi sono letto le notizie prima di cominciare questo incontro, perché ieri ho viaggiato tutto il giorno, ci vogliono 12 ore d'aereo per arrivare qui. E beh, certo che, diciamo, se uno sceneggiatore avesse dovuto inventare qualche cosa che plasticamente rappresentasse la situazione di oggi, nella cosiddetta sinistra di oggi, beh, è più che la contemporaneità tra la manifestazione della CGIL da un lato e la Leopolda dall'altra, non si poteva trovare niente di meglio. Beh, effettivamente, secondo me quelli della CGIL l'hanno messa apposta, sapevano che c'era la Leopolda, no? L'hanno piazzata, che effettivamente da una parte, ma chi sono i reduci e chi sono i pionieri? Cioè, questa cosa ti piace, i reduci e i pionieri, il Museo delle Cere e i nuovi? Fa parte della retorica politica, ovviamente, però tutti i torti non ce li ha, nel senso, Renzi ha un grande vantaggio, perché prima di tutto fissa lui l'agenda politica continuamente, no? E adesso lo vuol fare anche in Europa, e attenzione che qualche ne vedremo delle belle. Se comincia per esempio a chiedere la spending review alle istituzioni europee, alla Commissione e tutto il resto, se si presenta e dice: scusate ragazzi, io ho messo il tetto in Italia, 240.000 euro, com'è che gira qua il fumo? Sì. Mi fate vedere quanto guadagnano i dirigenti, eccetera. Vuol fare la battaglia contro l'Unione Europea. Sì, però la spending review non siamo riusciti a farla neanche in Italia. Oggi ancora Carlo Cottarelli fa un'intervista alla stampa e gli si chiedono: ma le partecipate dovevano essere 1.000? E io da 8.000 ne volevo 1.000. Ma in legge di stabilità non c'è nulla. E lui risponde ad Alex Barbera: io non so cosa risponderle, non so cosa dirle. Quindi voglio dire, poi la spending review in Italia non è che l'abbiamo fatta molto, per ora. Tu, Federico, che ne dici? Sei un reduce, un pioniere, ti piace questa visione? È vero, però è una visione mediaticamente calzante. Ma così gioca facile, voglio dire. Cioè, la Bindi è da Museo delle Cere. Ce lo diciamo da sempre che la vera marcia in più di Renzi è che non ci sono alternative a Renzi. E lui rappresenta il nuovo, poi può piacere o non piacere, però è l'unico prodotto nuovo che ha partorito il sistema politico da quando è finita la Seconda Repubblica, insomma, ecco. E nessuno è stato in grado per ora di riproporgli un avversario, e quindi lui ha delle vaste praterie, lui è già centro, secondo me, e siccome le elezioni da noi si vincono al centro, è parte molto avvantaggiato. L'avversario sarà forse lui. Lui, così dicono i giornali, Landini, il partito di Landini. Non mi sembra un partito maggioritario, un partito rappresentato da Landini. Questo non si sa. Landini che potrebbe fare un partito dentro il quale convogliano poi tutti quelli del PD, che non so, i Fassina, Rosi Bindi, Cuperlo. Ti dà l'idea comunque di una roba di nicchia, per carità. La vecchia sinistra sarà sempre rappresentata in Italia, però storicamente non ha mai riuscito a raggiungere la maggioranza. Renzi, da quella parte lì, sta facendo man bassa dei voti di centrosinistra e di centrodestra, finché dall'altra parte non troveranno qualcun altro. Comunque, io ho detto la questione del gettone della sbarra, perché è l'immagine che ha usato Matteo Renzi e che oggi sui giornali viene più replicata e viene contestata. Lo stesso Landini dice dalle colonne di Repubblica: fate sapere a Renzi che io da anni uso l'iPhone. Il merito tecnico è che nel 2014, aggrapparsi a una norma del 1970, che la sinistra di allora non votò, perché la sinistra di allora non votò, è come pensare di prendere un iPhone e di dire dove lo metto il gettone del telefono. Insomma, l'idea è, ti piace, Chicco, testa questa, tu usi ancora il gettone telefonico, il ragazzo è creativo, sì. Però ha lanciato questa idea del posto fino, io il dibattitone sull'articolo 18 non gliela posso fare, però ha detto questa frase: il posto fisso non c'è più. Segue anche qui dibattitone sul posto fisso. Chicco Testa, che fa l'imprenditore, il posto fisso c'è ancora? No, ha ragione Renzi, è tutta l'idea sindacale della CGIL, è ancora basata su questa, cioè sull'idea che una persona entri in un'azienda e ci stia, come è successo ai nostri padri, per 30-40 anni fino al momento di andare in pensione, cosa che non avviene più per 1500 motivi, perché prima di tutto è difficile trovare un'azienda che rimanga a se stessa per 30-40 anni, che non sia soggetta a fusioni, crescite, internazionalizzazioni, purtroppo talvolta fallimenti, cambiamenti, eccetera, eccetera. Secondo, forse perché anche molti giovani che entrano nel mondo del lavoro nemmeno una cosa così la vogliono più. Forse no, sì, però non voglio neanche quello che c'è adesso, cioè il caos, i contratti da 600 euro, da 700 euro, certo, cioè certo, il non poter accedere a un mutuo, cioè ci sarà una soluzione di mezzo che permetta di no? Sì, assolutamente sì, che è quella dell'estensione, se vogliamo fare discorsi seri, che è quella dell'estensione di una serie di garanzie di natura universalistica a tutto il mondo del lavoro, a prescindere dal tipo di contratto che esso ha. No, mentre invece le parole d'ordine della CGIL, inutile nascondere, sono parole d'ordine che continuano a ripetere se stesse in maniera immutabile da ormai 20-30 anni. Infatti stavo dicendo prima, il vantaggio di Renzi non è solo quello che riesce continuamente, come si dice tecnicamente, a settare l'agenda, cioè a far discutere di quello di cui vuole che si discuta lui, ma è dal fatto poi che i suoi avversari, diciamo così, sono immobili, sono lì a farsi come dire, colpire da colpi di carabina continui senza mai spostarsi, perché non fanno altro che ripetere continuamente i propri quei atteggiamenti, mantra, le proprie parole d'ordine. Però questa cosa del posto fisso è, Federico, uno che il posto fisso, ma io lo dico anch'io, io ne parlo con pudore, perché il posto fisso, per quanto possa essere fisso, adesso mi crolla l'azienda in testa, no, cioè ce l'ho, e quindi voglio dire, è facile parlare da chi magari ha... No? Ce l'hai fino... Finché l'azienda c'è, no, Chicco. No, c'è la prova contraria. Fino a prova contraria. Non fare l'uccello del malaugurio. No, perché non c'è bisogno che mi spiegate voi quanto il mestiere del giornalista, diciamo. Ma no, è chiaro. Ma anche Federico Novella parte, fa benzina lunedì mattina e poi arriva la sbarra di Mediaset. E quando avvicina il passo alla sbarra di Mediaset, è una scommessa. Ha sempre un brivido, quel brividino che fa bip e la sbarra si alza. Oggi entri, domani non entri, è la vita, capisci? Esatto. Però Federico, tu che sei giovane, giovane dei tre. Ma è chiaro che l'Italia è ancora indietro da questo punto di vista, è anche chiaro che Renzi non è che vuole scardinare qualsiasi diritto, cioè noi parliamo di abbandonare il posto fisso, ma qui si tratta di sostanzialmente di abolire il reintegro quando un'azienda vuole ristrutturare, vuole cambiare un po' le cose perché non ce la fa. E fino ad ora è stato obbligato a reintegrare il lavoratore dopo una decisione di un giudice, quindi è veramente il primo passo per allinearsi con quello che fanno gli altri paesi. Sì, il secondo passo, però io insisto, è la questione, oggi lo dice anche De Rita su un'intervista al Corriere, e però sti giovani che hanno bisogno di avere un mutuo, di accedere a un mutuo, di poter mettersi a vivere, non so, a convivere, allora, a vivere da soli, devono avere le possibilità, no? Da una parte ci bisogna avere una piattaforma comunque di garanzie, anche per il lavoro temporaneo, ma bisogna anche cambiare un po' la testa, prima o poi anche i giovani italiani, le famiglie italiane dovranno cambiare la testa e adeguarsi a quello che succede negli altri paesi, dove si lavora prima, c'è più mobilità e si abbandona il tetto di mamma e papà molto prima di quando si faccia da noi. E poi c'è lui, sì, il protagonista della Leopolda, colui che ha rotto un po' le uova nel paniere, colui che ha creato un po' di... Ma come chi? Dai, Davide Serra che qualche anno fa litigò con Bersani con Serra, il partito dei finanzieri. Tanto chi è Davide Serra, testa? Tu lo conosci? Sì, lo conosco bene. Che tipo è? È un giovane, insomma, quarantenne, sì, molto precoce, molto brillante, che ha guadagnato anche molti soldi, credo, con il suo fondo. Sì, Algebris. Uno di quegli italiani, come ce ne sono tanti, che laureatici in Italia sono andati a lavorare a Londra, dove ci sono moltissimi italiani che lavorano in tutti i mestieri, dal cameriere al cuoco, nel mondo della finanza ce ne sono moltissimi. È una persona dotata di una forte passione sociale, sì, che manifesta anche nel fatto che, come ha detto ieri, ho visto un'intervista, e lo so per certo, si occupa anche moltissimo di iniziative, diciamo, di charity, di beneficenza umanitarie, e assolutamente, diciamo, dotato di una dote abbastanza rara, cioè manca completamente il senso della diplomazia. Esatto. No, ma sentite cosa detto. No, ma senti cosa, e sentiamolo appunto cosa ha detto, perché poi lo commentiamo. Praticamente Serra ha detto: troppi scioperi, laddove si sciopera gli investitori non portano i capitali. Hanno fatto lo sciopero i controllori aerei. Bene, l'aereo è ritardato di 6 ore. Io ho sentito 2 imprenditori inglesi che dovevano venire. Uno ha detto: guarda, questa è l'ennesima volta che ci troviamo in difficoltà perché qualcuno del settore pubblico ha deciso di esercitare il suo diritto di veto. E uno ha detto: sai che ti dico, magari andiamo a investire in Spagna. Eccolo là, Chicco Testa. Si sciopera e io non investo in Italia. Ecco. No, tra l'altro ha detto una cosa che ha suscitato un grande scandalo, ma sì, forse mi sbaglio io. Lui ha detto che bisogna limitare il diritto di sciopero nel settore pubblico. Sì, è vero, è vero. No? Cioè almeno scioperate tutti insieme, scioperate... Vabbè, a parte insomma, che a Roma, diciamo, abbiamo una volta al mese lo sciopero il venerdì dei trasporti pubblici. È un classico. Veramente, è una cosa vergognosa, fra l'altro, di un settore che perde soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma peraltro credo che la limitazione, se non mi sbaglio, la limitazione del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici esiste già da un sacco di tempo. c'è una regolamentazione. Quelli essenziali, però. Sì. Quelli essenziali. Trasporti, certo, utenze, queste robe qua. Vabbè, però insomma ha detto si sciopera troppo, Novella, ha detto questo. Lì si è un po' allargato, cioè secondo me pare che anche Renzi si sia un po' infastidito, diceva. È un po' infastidito. Adesso io non so se in prospettiva è questa la, non credo che sia questa la dottrina di Renzi in prospettiva, diciamo che quella è un po' la ultraliberal dei leopoldiani, vogliamo chiamarla così, insomma, no? Secondo me qua la troviamo in Chicco Testa. Dai, Chicco, dici una cosa, tanto sei in America, poi sei a Miami, non ti sente nessuno. Di che ha ragione Serra, si sciopera troppo. Guarda, sicuramente c'è un grandissimo problema che permane, che è quello perché prima parlavamo di posto fisso, c'è un unico settore economico in cui permane il posto fisso, che è quello della pubblica amministrazione. Eccola, così salutiamo i 3 milioni di dipendenti pubblici. Che stiamo facendo adesso non ha significato, perché l'articolo 18 non vale per l'amministrazione pubblica, dove licenziare una persona anche con motivi molto solidi, non stiamo parlando qui di crisi economiche o di altre cose, è praticamente impossibile, sì, è praticamente impossibile, e quindi insomma qualche elemento da mettere in sintonia tra settore privato e settore pubblico sicuramente c'è. Ci vuole. 24 mattino. Dottor Milan, buongiorno. Allora, i genovesi, se dovessero tirarsi da quella sorte lì disperata che sono, dovrebbero appoggiarsi a degli amministratori olandesi o tedeschi. E gli italiani, niente italiani, tutti a casa loro, capito? Volevo lasciare un messaggio a Renzi. A Burino, c'hai solo il coraggio di lingue o anche il coraggio di palle? Vedremo se avrai coraggio di palle, te le faremo mangiare. La popolazione non ha capito niente in Italia e non capisce mai niente, sono ignoranti, incapaci di capire. Non ci sono posti di lavoro in Italia, i politici posti di lavoro non ne danno perché i soldi se li devono rubare e la colpa è nostra, è il cornuto che va a votare. Dopo la Roma rullata dal Bayern Monaco, anche la Juventus sconfitta dall'Olympiakos ad Atene. Oh, adesso i gobbi hanno poco da stare allegri. Buongiorno Milan, ascolta, ma non desiderare troppo la Rossella Brescia che ti si accorcia la vista. Piuttosto, invita la Luisella Costamagna che non la inviti più. Almeno facciamo anche un po' di giornalismo vero la mattina. Ti pare? Ciao, Bigul! Allora, era la segreteria telefonica di venerdì, l'abbiamo rimessa, così il buon Chicco Testa ha sentito che la Juve ha perso, così Federico Novella ha sentito che la Juve ha perso. A proposito, che ha fatto la Juve ieri sera? Se ci pigli in giro? Infatti, aggiorniamoci un attimo, ci che pigli? Ha fatto? La Juve ieri sera ha vinto con un gol in netto fuorigioco, quello del 2-0, ma il fuorigioco a Torino pare che non contino, c'è una regola per cui... Non c'è mai stata partita. Milan, ma il Milan che ha fatto a proposito? Perché me lo sono perso. Il Milan ha pareggiato in una partita regolare finita 1-1 tra Milan e Fiorentina. Eroica, una partita eroica. Tra Milan e Fiorentina. Quando si gioca regolare può succedere di non vincere. Mentre la Pro Sesto ha vinto 2-1 con doppietta del bomber Spampat. Vuoi sapere qualcos'altro? Volete sapere qualcos'altro? No, Federico, tutto a posto, va bene. No, tutto a posto. Tutto a posto. Sentite qua Piff, ecco, in tutto questo è comparso Piff, un genio, veramente Piff, è un grandissimo e che ha dato la sua verità molto sintetica. Quando vedo Renzi con Verdini mi viene un brivido, ma è quello che gli ho detto. Eccolo lì, quando vedo Renzi con Verdini mi viene un brivido. Ecco, qui è la chiusura della Leopolda, perché poi avrà molti brividi allora. Avrà molti brividi. Cioè, perché Chicco Testa, questa cosa qui può passare sempre inosservata. Cioè, però alla fine Renzi è quello che fa con Berlusconi, con Verdini, con no? E Piff, lo conosci bene, è uno che dice io, insomma, sarò renziano anche, guardo con attenzione, però poi questa cosa mi fa venire un brivido, Sai, il problema è che cosa ci fa con Verdini, no? Perché tutti chiedono di vedere questo famoso accordo segreto del patto del Nazareno, no? Ci fa le riforme, la riforma della Costituzione. Appunto, voglio dire, diciamo che anzi, che Renzi mostra un tasso di realismo importante, perché dice, vabbè, io le riforme con qualcuno le devo fare, no? Diciamo che la domanda andrebbe fatta ai grillini, che si sono completamente autoesclusi da qualsiasi possibilità di alleanza politica, e quindi, come diceva mio nonno, la minestra si fa con le verdure che si trovano. E fino adesso però devo dire che quello che sta uscendo da questi accordi a me mi soddisfa abbastanza, diciamo così. Ecco. La minestra si fa, tu Federico questa la sentivi, la minestra si fa con le verdure che trovo. Sì, è una, come dire, una perla di saggezza di altri tempi. È come dare, come dare della zucchina a Verdini, però è così, cioè alla fine l'obiettivo di Renzi è portare il risultato a casa. C'ho poi una zucchina e due rape, c'ho un Verdini, un capezzone, esatto. Che devi fare? E poi mi pare che lo scompiglio ci sia soprattutto tra le file avverse, diciamo così, addirittura con un Berlusconi che accetta l'unione gay, lo ius soli, la cittadinanza per i ragazzi immigrati, Berlusconi è un po' in una situazione in cui non lo so, se gli si sottopone qualcosa e vede che paga elettoralmente, magari la fa passare così. Visto. Questa Federico non rivendertela tua, che poi la sbarra di Mediaset magari. Esatto, rimane. Poi rischio grosso con questo. Rimane socchiusa. A proposito di Beppe Grillo, visto che Chicco Testa l'ha citato, Beppe Grillo ieri era in Sicilia contro Crocetta a fare un discorso e ha detto: "Ecco, domani sui giornali diranno che io sono per la mafia". Certo, ha detto questa cosa sempre col suo tono guascone. Di mafia è emigrato, la più grande regione di immigrazione è la Sicilia, ma anche di mafia è emigrata, se n'è andata anche di qua, c'è rimasto poco, c'è rimasto qualche pizzo, qualche sparatoria così, da picciotti come si dicono la strada, ma oggi la grande mafia è a fare i grandi lavori, la mafia bisognerebbe quotarla in borsa come hanno fatto con la Yakuza giapponese, cazzo, e vuoi vedere che se investi guadagni anche. Bisognerebbe quotarla in borsa la mafia, poi pare che abbia detto anche aveva una sua morale, vabbè, ma sempre con quel tono così alla Beppe Grillo, no? Faccio le battute, sono Beppe Grillo d'altronde, però intanto tam, te la piazzo lì, la mafia in borsa lì è quotata lì in borsa a New York. A Miami, Beh, non escludo che ci sia qualche azienda, diciamo, con qualche infiltrazione mafiosa, no, vabbè, che è quotata. Non lo escludo affatto. Non è quotata. Vuoi dire qualcosa contro il Movimento 5 Stelle, così poi diamo sul tuo no, account che Twitter, che così ti seguono che tutta la giornata. Da solo è un disastro, diciamo, no? Un disastro totale che peggiora continuamente, tra l'altro non c'è poco da fare, no? È un disastro, questa me la segno, aspetta, la possiamo twittare? Chicco Testa dice Movimento 5 Stelle è un disastro totale, perché quelli del Movimento 5 Stelle sono affezionati poi a chi dice queste cose. Non c'è una sezione di Movimento 5 Stelle ti seguono twittala, così mi prendo quei soliti centinaia di tweet insulti che normalmente arrivano in questi casi, no? Perché loro poi così ci tengono a seguire le persone che vogliono loro bene, no? Anche sotto casa, li seguono. No, questo no. Vabbè, Federico, di che parli tu alle 9 a mattino 5 con Federica Panicucci? Ecco qua, parliamo di lavoro e poi di questa polemica che avrai sentito in Piemonte, hanno fatto un autobus solo per gli immigrati. Ah, come no? Sta dividendo molto. Avremo anche noi Salvini alle 8:15 insieme a Michele Emiliano. E parleremo anche noi magari anche di questa cosa. E Chicco Testa, che devo dire? Buona Aragosta a Miami. Non lo so, magari stasera vediamo se stasera è quasi luna, è luna di notte, devi andare a dormire. Lo so, è luna di notte, devo aspettare la sera per vedere se c'è qualche pesciolino interessante. Vabbè, viva i pesciolini a Miami. Grazie, alla prossima. Ma il posto fisso non c'è più. Non c'è più il posto fisso, non perché lo abbiamo scelto noi. Non c'è più il posto fisso perché è cambiato il mondo. È cambiata la scrivania, ve l'ha fatto vedere Luigi Famiglietti prima. È cambiato il pit stop. È cambiato in un arco di tempo strettissimo tutto ciò che ci circonda sul mondo del lavoro. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Forza ragazzi, forza ragazze, cari ascoltatori, amici debosciati d'Italia, alle 7:19 minuti, mentre voi siete ancora rallentati, la 78esima settimana decisiva per la riforma elettorale è già cominciata. In questa settimana decisiva, la 78esima, forse aboliranno pure le province e noi saremo lì a verificarlo. Se no, ci sarà, come al solito, la 79esima alle porte. Animo e ottimismo. Oggi parleremo di quello che è successo in questo weekend tra la piazza della CGIL e la Leopolda di Renzi. Avremo ospiti Michele Emiliano, ex sindaco di Bari, candidato alla presidenza della Regione Puglia, alle primarie in Puglia per il PD, e Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Questo dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i giornali. Questo lunedì 27 ottobre, certo, quello che è successo in questo weekend è l'apertura per molti quotidiani, anche se l'altra grande notizia è quella dell'esame della BCE, gli stress test sulle banche italiane. Il Sole 24 Ore apre proprio su questo stress test, disco rosso per Montepaschi e Carige. Corriere della Sera, banche italiane, solo due bocciate. Mentre l'apertura su Renzi, non esiste il posto fisso e non caccio nessuno dal PD, così apre Repubblica. Mentre la Stampa, Renzi, addio al posto fisso. Il Giornale, Renzi scarica la sinistra. Il Messaggero torna sulle banche, invece BCE boccia due banche italiane e così anche il Secolo XIX, bocciata la Carige, 650 milioni dai soci, e certamente il Secolo ovviamente si interessa a quelle che sono le sorti e i destini della Carige. Mentre io voglio partire però da chi? Da Carlo Cottarelli, che ormai a fine mandato il 31 ottobre, quindi tra qualche giorno tornerà negli Stati Uniti. così, non dico che si tolga qualche sassolino, anche se qualche sassolino se lo toglie in qualche intervista, in questo caso parla con La Stampa, con Alessandro Barbera, e racconta, pagina 9 della Stampa, l'ex ormai commissario della Spending Review: spese senza controlli, bisogna cambiare testa. Questo è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 9. E inizia anche a parlare del suo rapporto con Renzi. Se mi amasse o meno, dovete chiederlo a lui. Però ha ragione quando dice che le decisioni le deve prendere la politica e non un commissario. Quando mi chiamarono, anch'io mi chiesi perché ci fosse bisogno di una figura del genere. Cioè, lo stesso Cottarelli si è chiesto perché l'avessero chiamato. Ci voleva qualcuno, mi risposero, in grado di far entrare la cultura della revisione della spesa nella testa della burocrazia. Riguardo ai risultati, lui dice: beh, ma non è vero che non sono entusiasmanti, c'è una banca dati delle partecipate pubbliche, c'è la norma che porterà alla drastica riduzione delle centrali d'acquisto pubbliche, c'è la norma che introduce l'obbligo di fatturazione elettronica, c'è una prima lista di prezzi benchmark. Però ci sono alcuni problemi irrisolti, per esempio le partecipate, le cose stanno come dice lei, avevo proposto di ridurle da 8.000 a 1.000, nella legge di stabilità non c'è nulla, non so cosa risponderle. Allarga in qualche modo le braccia Cottarelli. Sulle prefetture si sarebbe potuto procedere più velocemente. Un primo strumento per attuare la riforma era compresa nella legge di svuotamento delle province. Poi scoprì che era necessario inserirla di nuovo nella delega di riforma della pubblica amministrazione. Ma perché? E c'erano dei problemi giuridici. E qui Cottarelli affronta proprio il nodo. Le norme in Italia sono spesso lunghe e incomprensibili e solo i burocrati sono in grado di gestirle. Occorrerebbe cambiare la testa di chi scrive le leggi, ma mi rendo conto che non è semplice. Questo Carlo Cottarelli, intervistato dalla Stampa. A proposito di norme complicate, fa specie balzare a pagina 19 del Corriere della Sera per raccontare, lo fa Gian Antonio Stella, quello che è il caso Lecce, una vicenda che riguarda l'Università del Salento, viene anche messa in prima pagina del Corriere della Sera. Insegnavi a Yale? Mettiti pure in coda. Questo è il titolo. All'Università del Salento fanno un concorso e danno più punti a chi ha avuto cattedre nei nostri atenei. Il concorso, al contrario, per professori vale meno chi viene da Harvard o Yale, cioè due delle università più quotate al mondo. Gian Antonio Stella dice: ma come, noi siamo tra le università meno quotate al mondo, a parte qualche eccezione. Eppure si fa questo concorso in cui si valutano i curriculum caserecci meglio dei curriculum internazionali. È il caso del bando di sezione per la copertura di 16 posti di professore universitario di ruolo seconda fascia firmato dal rettore Vincenzo Zara. E racconta Stella: già il documento è un capolavoro del delirio burocratese in cui affoga l'Italia. Prima di arrivare al nocciolo, la delibera elenca 42 visto e vista. Vista la legge 23 agosto 88 numero 370 esenzione dell'imposta da bollo, vista la legge 9 maggio 89 numero 168 istituzione del Ministero dell'Università, insomma 42 volte visto e vista, più due considerato, più un ritenuto, per un totale di 189 righe di logorrea codicillica. Il seguito, però, il succo, scrive Gian Antonio Stella, è perfino peggio. E cioè, viene riconosciuto a chi svolge attività di docenza in Italia 20 punti e a chi svolge attività di docenza all'estero 4 punti. Così, il risultato è che se Andrew Stewart, specializzato in Ancient Mediterranean Art and Archaeology, volesse prendersi lo sfizio di lasciare Berkeley per venire a Lecce, avrebbe per la sua esperienza didattica 4 punti. Rispetto ai 20 riconosciuti a un professor Tizio Caio che insegna all'Università Telematica di Rocca Cannuccia. Ecco, questo succede in Italia, nelle università italiane, come racconta Gian Antonio Stella. Succede anche questo. Ricordate la vicenda di Daniela Poggiali, accusata, infermiera di Lugo, accusata di aver ucciso, credo, una persona, ma in realtà i sospetti sono vari, sono di varie persone anche accusate di avere di essersi fotografata in ospedale con i cadaveri. Ebbene, che succede in Italia? Non è la prima volta quando ci sono queste persone accusate di reati gravi e che sono anche persone affascinanti fisicamente. È una bella donna, una bellissima donna. Succede, raccontano tutti i giornali, che all'infermiera arrivano lettere d'amore in carcere. Io lo vorrei conoscere, uno che manda una lettera d'amore a Daniela Poggiali. Vi giuro che vorrei scambiarci due parole davanti al caffè. In un bar. Sexy Spavalda accusata di omicidio, all'infermiera lettere d'amore in cella. Così il Fatto il Quotidiano Nazionale dedica una pagina, pagina 10, ma anche il giornale. Ammiratori scrivono all'infermiera killer, e anche il Secolo XIX, innamorati dell'infermiera della morte. Vabbè, ecco, poi qua i titoli andranno provati, ovviamente, queste accuse. Centinaia di lettere in carcere per la donna accusata di aver ucciso alcuni ricoverati. Ma non è questo che vince il premio Mani sul Volante. Il premio Mani sul Volante lo vince l'articolo del Secolo XIX. È l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Per iniziare bene la settimana, racconta Alberto Parodi in mezza pagina la storia di Giulio Lampada. Accusato e condannato come uno dei boss dell''ndrangheta, si trovava al 41 bis a Milano, ma la sua psicologia è incompatibile con il carcere. Non sopporta gli ospedali, non sopporta i luoghi chiusi, è claustrofobico ed è condannato a 14 anni, è depresso e per questo va in comunità, in Valbormida. In una comunità in provincia di Savona, dove di tanto in tanto una pattuglia dei carabinieri andrà ad accertarsi della sua presenza, perché questa comunità è considerata una comunità molto open, nella quale non ci sono sbarre, non ci sono controlli, non ci sono, no? Non c'è un troppo pressing sulle persone ospitate in questa comunità, proprio perché vanno le persone che soffrono questo magari controllo ossessivo. E allora Giulio Lampada, in carcere al 41 bis, dal 41 bis soffre il carcere, è depresso, vada in comunità a rilassarsi un po'. Bogotà, deragliamento di un treno a Bogotà e sono morti 250 persone, 758 feriti. Tu ci stavi sul treno a Bogotà? No. E allora che ti cazzi a fa? Fornetti caldi per tutti, Alessandro Milan, il Perozzi dell'informazione. Grande il Perozzi di Amici Miei. Allora, sui giornali certamente le aperture politiche sono dedicate agli eventi di questo weekend, vale a dire la piazza della CGIL con il milione di persone e la Leopolda. Qualcuno racconta, e forse lo stesso Renzi ha detto così, le due visioni plastiche del modo di intendere la sinistra oggi in Italia. Infatti ieri Renzi, al chiudere la Leopolda, ha usato proprio questa frase che abbiamo sentito anche alle 6.30 ed è ricordata da tutti i giornali: non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il PD e di riportarlo dal 41 al 25%, non consentiremo di fare del Partito Democratico il partito dei reduci. Ed è questa rappresentazione, come racconta Concita De Gregorio a pagina 6 di Repubblica, i reduci, quelli del telefono a gettoni e del rullino nella macchina fotografica, ha usato anche questa espressione Renzi, no? Attaccare l'articolo 18 è come coloro che vogliono mettere il telefono, il gettone telefonico nell'iPhone. Racconta Concita De Gregorio: quelli che in fondo sperano che tu fallisca, perché se non ce l'abbiamo fatta noi figuriamoci loro, quelli che come il pensionato affacciato al cantiere scuotono la testa e dicono questa strada non si farà mai. Ecco dunque i pionieri contro i reduci, i nostalgici contro i visionari costruttori di futuro, il museo delle cere contro quelli che lo sanno e come che nell'iPhone non entra il gettone, nella macchina analogica non ci va il rullino. Protestate pure, provate a infilarlo nella vostra macchina fotografica, continuate pure a provare, risate, applausi. Eccolo qui sintetizzato per Concita De Gregorio l'attacco durissimo, quello di Renzi all'altra sinistra, quella di lotta che ha manifestato in piazza e per la quale ha proclamato rispetto sabato, ma che ora in chiusura dei lavori della Leopolda di governo liquida come un retaggio novecentesco e minoritario, un sussulto del passato che non muore, incapace di ammettere i suoi errori e guardare il mondo com'è diventato. E voi, non lo so, vi riconoscete in una delle due rappresentazioni della sinistra, in nessuna delle due? Tra l'altro noi approfondiremo alle 8:15 proprio questo tema. Certo, Renzi poi ha lanciato questa frase, non è il primo a dirlo, lo disse anche la Fornero e fu molto criticata, e lo dice anche Renzi: il posto fisso ormai è un miraggio, il posto fisso non c'è più. Racconta oggi La Stampa con un'intervista di Giacomo Galeazzi a Giuseppe De Rita, sociologo, un'analisi, appunto, uno dei sociologi più attenti di quello che è il mondo italiano, anche il mondo del lavoro. Dice De Rita: quella di Renzi è una presa d'atto. Dopo l'ultimo quinquennio di precariato, disoccupazione, il posto fisso non esiste più neanche negli enti pubblici. Ormai anche nel pubblico impiego si lavora a termine, non più fino alla pensione. Il posto fisso tradizionale è un'icona in via d'estinzione, un mito sfumato. I giovani, però, aggiunge De Rita, hanno ancora bisogno di un'aspettativa, altrimenti non possono sposarsi, fare un mutuo, comprare casa. Senza sicurezza, almeno per 5-10 anni, non c'è programmazione. Il precariato viene chiamato elasticità, ma in concreto si moltiplicano difficoltà e non opportunità. Il Jobs Act va nella giusta direzione, dice De Rita, però crea procedure non aspettative. È un riordino del mercato del lavoro con qualche punta polemica. Si punta a un normale funzionamento e nulla di più. Sono scomparsi i corpi intermedi della società. L'incertezza richiede adattamento. Nessuno dei miei 8 figli, perché ha 8 figli De Rita, ha un contratto a tempo indeterminato. Per non lasciare i giovani in balia di un mercato del lavoro divenuto molecolare c'è bisogno di incentivi, deduzioni fiscali, interventi mirati. Così De Rita. Certo, il posto fisso non c'è più e ovviamente potrete trovare pagine, paginate di analisi. Per esempio Mario Aiello si concentra anche qui sul partito iPhone contro la sinistra da gettone telefonico. Voi potete immaginare quanto queste immagini ora siano sviluppate sui giornali, no? Andremo avanti giorni con questa idea del gettone telefonico, le foto che ricompaiono dei gettoni telefonici. Risponde in qualche modo a Renzi Landini. Maurizio Landini, leader della FIOM, tra l'altro indicato da tutti come il possibile fautore di un partito, la guida di un partito che potrebbe raggruppare tutti coloro che dalla sinistra, dall'attuale PD, potrebbero uscire, che ne so, si pensa ai Fassina, ai Bindi, ai Cuperlo. Ebbene, Maurizio Landini, intervistato da Repubblica, dice: mi richiama al telefono fisso? Inizia così, in maniera anche un po' spiritosa, intervista con Umberto Rosso. Mi dispiace per Renzi, ma io l'iPhone lo uso da anni, eppure la macchina fotografica digitale. Mi sa che è lui che ha difficoltà, forse, a trovare i gettoni. Qui se c'è qualcosa di vecchio è la politica del governo, dice Landini, è diventata ormai la spalla di Confindustria. E poi attacca sulla questione del posto fisso: venirci a raccontare che il modello fordista è morto, ma vada nei call center, Renzi, dove se in un'ora non rispondi almeno a 12 telefonate parte il richiamo del capo. Semmai il modello fordista si è allargato, è uscito dalla fabbrica Tracima. Se il lavoro lo creano loro, mi aspetto che da domani tutti i problemi siano risolti a Terni, alla Thyssen, alla Nokia, all'Italtel, per citare solo alcune aziende della lunga lista nera della crisi. Comunque, il tavolo è convocato, vedremo, ma se i segnali sono quelli che arrivano da Firenze, la vedo brutta. Così Landini, che tra l'altro al Corriere della Sera anche qui fa una chiacchierata e esordisce così: io in politica oggi è la 180esima volta che rispondo a questa domanda. Critico nei confronti di Renzi anche Cuperlo, ex presidente del PD, che dice: se ci sarà scissione, in un'intervista al Corriere della Sera, sarà colpa di Matteo Renzi. E anche Rosy Bindi, intervistata dalla Stampa: Matteo svuota tolta tutto il PD, diventerà il partito di Serra. Serra in quanto Davide Serra, il finanziere che ha creato anche lì scalpore alla Leopolda, perché ha detto che bisognerebbe limitare lo sciopero, soprattutto nel pubblico impiego, limitarlo, concentrarlo, perché altrimenti gli investitori in Italia non vengono. Fa un assist in qualche modo a Matteo Renzi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che viene intervistato dal Corriere della Sera, oltre che da altri giornali internazionali, vale a dire il Times, il País, Les Echos. E per il Corriere lo intervista Paolo Lepri, è una lunga intervista su che cosa? Sull'accordo, sullo scambio automatico di informazioni fiscali che verrà firmato mercoledì a Berlino da oltre 46 paesi, quindi si parla soprattutto di lotta all'evasione fiscale, lotta all'evasione fiscale internazionale, ma a un certo punto Schäuble, parlando della riforma del lavoro in Italia, dice: il mio consiglio è quello di non basarsi sul principio della speranza, ma più su quello della realtà delle decisioni sulle politiche finanziarie, di bilancio e strutturali. Per questo penso che il percorso che il governo Renzi stia compiendo con la riforma strutturale della legislazione del mercato del lavoro sia decisivo per fare avanzare l'Italia. Il titolo è proprio questo: la riforma del lavoro di Renzi, decisiva per far avanzare l'Italia. Caro Mauro Meazza, vedi che c'è qualcosa di decisivo finalmente. Buongiorno. Tipo la vittoria dell'Inter, il rigore, sì, all'Inter, tutto decisivo. Sì, ma abbiamo giocato bene, no? 11, cioè sì, il, sì. 10 contro, sì, 11, sì. O eravamo noi in 11 o non ho potuto seguire. Avete portato a casa la ghirba. Non ho potuto seguire con così attenzione i ragazzi, però continuo naturalmente sempre a sostenere con il massimo dello sforzo, perché dovevo preparare queste numerose pagine, sì, che vedi oggi sul Sole 24 Ore sugli stress test. È molto interessante, Mauro. No, ma certo, sto leggendo con molta attenzione. Che cosa possiamo dire? Perché che Monte Paschi, Siena e Carige sono state bocciate, però a metà, diciamo, no? Sì, allora possiamo dire, diciamo, due cose sostanzialmente, poi molte vengono dette nelle nostre 12 e più pagine. Che il sistema italiano ha mostrato una certa solidità, con due eccezioni che peraltro conoscevamo già. Possiamo anche dire che le pagelle non sono state molto generose nei nostri confronti, perché complessivamente abbiamo ottenuto più noi istituti, diciamo, nel mirino di quanto abbiano ottenuto altri paesi. E c'è tutta una vicenda su il sistema bancario tedesco che risparmio, rimando alle pagine del Sole 24 Ore. Non c'è un motivo, come dire, di preoccupazione, anche perché questi stress test sono calcolati su scenari anche molto molto negativi, in cui appunto se la mancata crescita fosse di una dozzina di punti percentuali del prodotto interno lordo, beh, allora forse il problema delle banche, come dire, sarebbe uno dei tanti e non l'unico problema che avremmo. Infatti, quindi, si parla anche di una certa irritazione di Banca Italia, qualcuno ha fatto notare, come dire, gli scenari su cui sono stati fatti questi stress test sono stati scenari quasi catastrofici, ecco che allora alcune banche... Sono scenari molto punitivi, molto pesanti, d'altra parte è un test di resistenza appunto a condizioni di difficoltà, le condizioni sono immaginate di estrema difficoltà, e allora possiamo dire che tutto sommato il nostro sistema, nella parte appunto verificata dalla Banca Centrale Europea, ne esce abbastanza bene, ripeto, meno bene che altri sistemi, e quello non lo capiamo fino in fondo, ma vabbè, accettiamo, come dire, le pagelle, sai, è come diceva quello là, rigore quando l'arbitro fischia. Tra l'altro, Mauro, ecco, segnaliamo che l'amministratore delegato di Montepaschi, Viola, fa un'intervista al Sole e proprio dire: a questo punto si può anche valutare una fusione, sì, è una cosa che non viene esclusa, ecco. È uno scenario che sembra abbastanza probabile, ci sono dei rumors che riportiamo, delle anticipazioni, delle chiacchiere, come possiamo definirle, che riportiamo oggi sul Sole. Con molte altre cose, prima citavi questioni di tassazione estera, beh, noi ci occupiamo di chi all'estero c'è andato per lavorare, nell'esperto rispondegli e segnaliamo appunto i pagamenti delle tasse, perché non è detto che solo andare all'estero basti a non dovere più tasse in Italia, ad esempio, e quindi a questo è dedicato la nostra pagina iniziale dell'esperto risponde. Poi, naturalmente, tornando alle banche, c'è una bussola per i risparmiatori, che descrive un po' gli scenari che abbiamo cercato di tracciare e che vedremo di qui ormai a poco più di a poco meno di due ore, insomma, vediamo che succede sui mercati, come i mercati gradiranno o non gradiranno le valutazioni. Per tutto il resto, naturalmente, le pagine di norme e tributi, anche perché lì all'interno trovi in anteprima la classifica, le classifiche della ecosostenibilità dei comuni. Ti posso anticipare che vince l'Inter, no scusami, ho sbagliato, che vince Verbania e Belluno è al secondo posto. Mauro Meazza, un uomo che usa il gettone telefonico quotidianamente. Sì, anche con l'iPhone, però non so bene mai dove devo mettere il gettone. Nel dubbio lo tengo in tasca, mettiamola così. Bene. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Non male, non male questa. Allora, vi devo leggere due articoli su Repubblica che sono molto molto intensi, secondo me oggi molto azzeccati. Uno è una riproposizione di un'inchiesta del New York Times. È Rukmini Kallimaki che racconta sul New York Times una ricostruzione molto puntigliosa che è stata fatta sugli ostaggi dell'ISIS, molti dei quali, lo sapete, sono stati sgozzati dopo essere stati esibiti come dei trofei. Appeso al soffitto a testa in giù, torture, conversioni forzate, la vita e l'orrore degli ostaggi rinchiusi nelle prigioni dello Stato Islamico. Questo è il titolo, trovate a pagina 12 e 13. Gli ostaggi venivano portati fuori dalla cella separatamente. In una stanza i carcerieri ponevano loro tre domande personali, espediente classico per fornire la prova che un prigioniero ancora in vita. James Foley, per esempio, tornò nella cella che spartiva con una ventina di altri ostaggi e scoppiò in lacrime per la gioia. Gli chiesero: chi ha pianto alle nozze di tuo fratello? Da che aveva capito che finalmente erano in contatto con la sua famiglia. Era il dicembre del 2013 ed era passato più di un anno da quando Foley, giornalista freelance quarantenne, era scomparso lungo una strada della Siria settentrionale. Finalmente i suoi genitori avrebbero saputo che era vivo, disse ai suoi compagni di prigionia. Poi la vicenda di Foley sappiamo come finì, ucciso e sgozzato, ma racconta il New York Times tramite la ricostruzione di cinque ex prigionieri che sono riusciti poi a essere stati liberati. La prigionia, le torture, venivano picchiati, sottoposti alla tortura del waterboarding, una prigionia che ha coinciso con l'ascesa del gruppo conosciuto come lo Stato Islamico. Qui in queste due pagine si racconta la cattura, gli interrogatori, le torture e poi gli addii, perché a un certo punto i prigionieri venivano divisi in base alla disponibilità dei loro governi a trattare. Statunitensi e britannici da una parte, europei dall'altra. È una ricostruzione molto intensa e molto dura di quella che è la prigionia degli uomini che sono stati rapiti e alcuni giustiziati dallo Stato Islamico. Come una ricostruzione molto molto intensa è la lettera che Repubblica, che ieri è uscita sull'Huffington Post e oggi Repubblica ripropone, di Reyhanné Jabbari. Chi è Reyhanné Jabbari? È una donna che è stata impiccata in Iran, 26 anni, condannata al termine di un processo farsa, a detta di molti, perché questa donna che stava per essere violentata ha accoltellato e poi, secondo l'accusa, ha ucciso la persona che stava per violentarla, un uomo tra l'altro dei servizi di sicurezza iraniani. A nulla sono valsi gli appelli internazionali. L'Huffington Post ha pubblicato ieri, oggi la leggete su Repubblica, pagina 15, l'ultima lettera pubblicata da Reyhanné e rivolta alla madre. Cara madre, oggi ho appreso che ora è il mio turno di affrontare la Qisas, cioè la legge del taglione nel regime iraniano. Mi ferisce che tu stessa non mi abbia fatto sapere che ero arrivata all'ultima pagina del libro della mia vita. Non credi avrei dovuto saperlo? Perché non mi hai dato la possibilità di baciare la tua mano e quella di papà? Il mondo mi ha concesso di vivere per 19 anni. Quell'orribile notte io avrei dovuto essere uccisa. Il mio corpo sarebbe stato gettato in qualche angolo della città e dopo qualche giorno la polizia ti avrebbe portato all'obitorio per identificare il mio corpo e là avresti saputo che ero stata anche stuprata. L'assassino non sarebbe mai stato trovato, dato che noi non siamo ricchi e potenti come lui. Poi tu avresti continuato la tua vita soffrendo e vergognandoti. E qualche anno dopo saresti morta per questa sofferenza e sarebbe andata così. Ma con quel maledetto colpo la storia è cambiata. Il mio corpo non è stato gettato da qualche parte, ma nella tomba della prigione di Evin e della sua sezione di isolamento. Ma arrenditi al destino, mamma, e non lamentarti. Tu sai bene che la morte non è la fine della vita. Tu mi hai insegnato che si arriva in questo mondo per fare esperienza e imparare la lezione, che a ognuno che nasce viene messa una responsabilità sulle spalle. Tu ci hai insegnato, quando andavamo a scuola, che si deve essere una signora di fronte alle discussioni e alle lamentele. Ti ricordi quando notavi il modo in cui ci comportavamo? La tua esperienza era sbagliata. Essere presentabile in tribunale mi ha fatto apparire come un'assassina a sangue freddo. Non ho versato lacrime, non ho implorato, non mi sono disperata perché avevo fiducia nella legge, ma sono stata accusata di rimanere indifferente di fronte a un crimine. Lo sai, non uccidevo neanche le zanzare, gettavo via gli scarafaggi prendendoli dalle antenne e ora sono diventata un'assassina volontaria. Cara mamma, non piangere per ciò che stai sentendo. Il primo giorno in quella stazione di polizia una vecchia agente zitella mi ha schiaffeggiato per le mie unghie. Ho capito che la bellezza non viene ricercata in quest'epoca, la bellezza dell'aspetto, la bellezza dei pensieri e dei desideri, una bella scrittura, la bellezza degli occhi, della visione e perfino la bellezza di una voce dolce. Le mie parole sono eterne e le affido tutte a qualcun altro, in modo che quando verrò giustiziata senza la tua presenza e senza che tu lo sappia ti vengano consegnate. Ti lascio molto parole scritte a mano come mia eredità. E poi continua questa lettera molto intensa di Reyhanè, impiccata in Iran nel 2014. Per la cronaca vi voglio segnalare l'inchiesta del Fatto Quotidiano, che racconta come i comuni, che vedono i propri bilanci sempre più tagliati, si rifugino spesso nelle multe. Multe pazze, quella tassa invisibile, sono 2 miliardi l'anno le multe che i comuni danno, spesso piazzando gli autovelox, trac, lì dove non ve l'aspettate. Salvatore Cannavò, a pagina 4 e 5, racconta i salassi delle multe e racconta anche il fatto che, mentre il codice della strada stabilisce che la metà di quanto raccolto vada investito in sicurezza stradale, molto spesso questo non avviene. Comunque lo trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 4 e 5. E siamo al momento conclusivo. Eccolo qui, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Vince ancora il Corriere della Sera oggi, con una mezza pagina, pagina 25. George, basta. Amal, basta. E le nozze che non finiscono mai hanno fatto, dopo il doppio appuntamento a Venezia, il frantumamento che ci hanno fatto degli Zebedei bloccando mezza città e mezzo Veneto, una nuova festa a Londra. E anche il Corriere si chiede, ma non sarà troppo? E appunto, non lo chiedo io al Corriere, non sarà troppo? Ma chi se ne frega? 24 mattino. Non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il PD per riportarlo dal 41 al 25%. Non consentiremo di fare del PD il partito dei reduci. Saremo il partito del futuro e dei pionieri, valorizzando la memoria del nostro popolo, ma la memoria senza speranza è per il Museo delle Cere, non per l'Italia del domani. Allora, le 8:19 minuti, un regista, forse un Nanni Moretti magari, non avrebbe potuto sognare di meglio che rappresentare politicamente questo fine settimana visto da sinistra. Due scene nettamente contrapposte, due rappresentazioni antitetiche, di qua la manifestazione della CGIL sabato con 1 milione di persone, con pezzi anche importanti del PD, e di là Renzi e la Leopolda che dice basta il Museo delle Cere, basta i reduci, noi siamo i pionieri. Renzi quindi che usa l'immagine di una certa sinistra che vorrebbe usare il gettone telefonico da inserire nell'iPhone, e di là invece quella sinistra, i Cooperlo, i Fassina, i Rosi Bindi, che dicono Renzi sta trasformando il partito lo mette in mano al finanziere Davide Serra, no? Colui che è andato alla Leopolda a dire che in Italia si sciopera troppo e per questo gli investitori fuggono. Insomma, reduci contro pionieri, la sinistra che guarda al passato per Renzi e la sinistra che guarda al futuro. E ancora la CGIL che manifesta contro l'abolizione dell'articolo 18 e Renzi che dice manifestate pure, ma sappiate che il posto fisso non c'è più. Allora, mi interessa capire politicamente cosa sta succedendo. Intanto da Michele Emiliano, ex sindaco di Bari, assessore a San Severo, sarà candidato, se vincerà le primarie, alla Regione Puglia per il PD. Emiliano, buongiorno. Buongiorno. Lei il gettone ce l'ha, no? È uno di quelli che piace, usa l'iPhone, usa il gettone, così ci togliamo subito la battuta di mezzo. No, io ovviamente non faccio pubblicità alle reti televisive, però diciamo che non ho mai adoperato diciamo volentieri il gettone, ho sempre cercato, nonostante io non sia giovanissimo, sì, ho sempre cercato di capire cosa avevamo davanti, non quello che avevamo dietro, di stare al passo coi tempi. Allora mi interessa anche capire il parere politico in questo momento di un osservatore esterno a quello che succede nelle dinamiche della sinistra, ma magari anche molto interessato. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, buongiorno Salvini. Buongiorno, buona settimana. Intanto Salvini, ma politicamente se si dividessero nel PD è una cosa buona per la Lega, per il centrodestra oppure no? Guardi, se è buona per la Lega non lo so, spero che facciano chiarezza velocemente per l'Italia, perché qua stiamo assistendo alla pantomima, alla fantascienza del PD che è maggioranza, che è opposizione, che è vecchio, che è nuovo, che fa, che disfa, e poi nei risultati abbiamo una legge di stabilità che io non so se sia vecchio o sia nuovo, sia renziano o dalemiano, però l'articolo 17, che è pure un numero che porta sfiga di questa legge di stabilità, toglie 100 milioni di euro ai disabili e ai malati di SLA e toglie 50 milioni di euro agli alluvionati di Genova. Io non so se sia più Leopoldo o più Cigellino, però so che è un'infamia, quindi si mettessero d'accordo fra di loro, secondo me poi si separano perché non puoi tenere insieme Zuppa e Pan Bagnato per troppo lungo. Il problema è che mentre fanno il cinema, dietro le quinte, non nel salotto di Barbara D'Urso, ma negli effetti di legge, quest'anno i non autosufficienti, i disabili, i malati, gli infortunati sul lavoro ci smenano 100 milioni di euro. Sì, una cosa che ha trovato, credo, Libero un paio di giorni fa raccontata, però è interessante. Michele Emiliano, effettivamente la rappresentazione, se uno legge oggi i giornali, è una rappresentazione, succede quando avvengono due manifestazioni così antitetiche, così contrapposte, anche plasticamente belle da descrivere, succede però che ci siano molte chiacchiere oggi sui giornali e si rischia di perdere il concetto dei fatti. Mi sembra di capire che il senso, poi traducendo, di Salvini è questo. Lei è d'accordo, Emiliano? Io sono costretto a dire che sono d'accordo. Da Terrone a segretario della Lega gli devo dire che la sua prospettiva, che spesso mi irrita, devo dire, perché Matteo Salvini fa delle strane manifestazioni che insomma devo capire ancora fino in fondo. Mi riferisco a quella nella quale si preoccupa degli immigrati, senza i quali questo paese, temo, non riuscirebbe neanche più a funzionare. Però devo dire che la sua prospettiva è corretta, si occupa di fatti. Della legge finanziaria non si deve parlare solo in termini di contrapposizione di correnti interne al PD, ma sui fatti. Se effettivamente ci sono dei definanziamenti di questioni che noi riteniamo chiare, come la disabilità, bisogna discutere su quello, ed è quello che si deve fare nei consigli comunali, nei consigli provinciali, in ogni luogo della democrazia. Se viceversa il PD diventa il luogo dell'elaborazione teorica della contrapposizione tra vecchio e nuovo, noi abbiamo problemi giganteschi di dialogo con la società italiana per come essa è oggi. Ma lei non è andato né alla Leopolda né alla CGIL, in passato è stata la Leopolda, no? Quest'anno... Io sono, come è noto, un essere libero e pensante, spero, e vivo questa mia militanza nel PD con grande distacco dalle questioni poco pratiche, sì, e dedicandomi soprattutto a stare in mezzo alle persone, a risolvere dei problemi alle persone, altrimenti perché dovrebbero, diciamo, darmi degli incarichi? Sì. Se io non sono capace di risolvere problemi a San Severo alle persone, è inutile fare. Ma per esempio, cioè, è poco pratica l'idea della possibile divisione? Cioè, Salvini poi ci dice, ma da osservatore esterno alla fine si divideranno perché Zuppa e Pan Bagnato non stanno assieme. No, invece forse purtroppo è il contrario, è che siccome poi molti alla fine, purtroppo, anche dentro il PD, sono soprattutto interessati alle proprie carriere politiche, e questo ovviamente vale per tutti i partiti, siamo tutti circondati da persone che intendono la politica come una specie di carriera, c'è una bella fetta di noi politici che fanno politica per passione, ma molti altri lo fanno perché non hanno trovato altro genere di attività nella quale cimentarsi, e quindi temo che sotto questo aspetto sia soprattutto dentro il PD, sì, un confronto di questo genere, fermo restando che alcune questioni, ieri per esempio Matteo Renzi questa volta si è cimentato nello smontaggio dell'articolo 18, che mi è parso onestamente una di quelle cose che è già smontata sostanzialmente, cioè io non ho capito perché questa battaglia sull'articolo 18 attuale formulazione sia diventata così dirimente, è certamente un sistema vecchio di tutela dei diritti del lavoratore, però non so se meritasse una battaglia di queste proporzioni, io sono, rimango convinto che questo paese si cambia anche con quel milione di persone che erano a Piazza San Giovanni, quelle persone non sono, a differenza, sì, non le piace questa contrapposizione, no, non mi piace questa contrapposizione, soprattutto quelli non sono il Museo delle Cere, questo è un errore nel quale non bisogna cadere, quelli non sono reduci, quelli di Piazza San Giovanni, quelli sono un'idea del mondo contro l'eccesso della finanza, contro l'eccesso di sfruttamento delle persone, per i diritti di tutti, per la pluralità, per un mondo che non sia nelle mani solo dei potenti. Quello è una potenza straordinaria della sinistra alla quale Renzi non può rinunciare. No, beh, infatti io vorrei con Salvini capire, poi Salvini parleremo anche della questione degli stranieri dopo le 8:30, perché Renzi ha anche detto che Mare Nostrum salva i bambini, questo rispondendo a lei, però teniamocelo per più avanti. Però veniamo alla questione per esempio del lavoro, le chiedo due cose, Salvini. La prima è, da leader, secondo lei fa bene Renzi a contrapporre così, come dire, Museo delle Cere voi, reduci voi, pionieri noi, innovativi noi, e, cioè, certo fa bene, perché fa bene? Certo che fa bene, perché lui si sceglie un amico alla settimana, i poliziotti, i magistrati, i giornalisti, D'Alema, la Merkel. Peccato che poi nei fatti sia un abbaiare ma non un mordere, soprattutto in Europa, perché io ci sono tutte le settimane per lavoro, io stasera sarò lì e quindi leggo sui giornali un Renzi di battaglia, basta, non siamo noi a dover fare i compiti a casa, questi vincoli europei sono idioti, stanno massacrando le nostre imprese, la nostra agricoltura, di conseguenza fa esattamente quello che Bruxelles e la Merkel gli chiedono. Quindi da questo punto di vista è fenomenale, non so per quanto possa andare avanti. Confesso, Milan, che se io fossi un elettore che giudicassi chi votare da quello che sento alla radio e in televisione, io lo voto, perché è un fenomeno. Quando poi vado a vedere quello che fa, piccola differenza con i francesi hanno detto le regole europee sono demenziali, non le rispetto e non le rispettano. Renzi ha detto le regole europee sono demenziali, ma le rispetto, e le rispetta, e va avanti con le letterine con Bruxelles. Cioè fa un po' le supercazzole, giusto per... Fa le supercazzole che sono elettoralmente pregnanti, in questo momento però tutti gli indicatori economici del paese, e Radio 24 che io ascolto quando ho tempo non può che sottolinearlo, sono peggiorati, non per colpa di Renzi, non per colpa di Milan, non per colpa di Salvini, ma fatto sta che in questi 8-9 mesi tutti i dati di disoccupazione giovanile, debito pubblico, produzione industriale sono peggiorati, quindi evidentemente non puoi andare avanti a parlare per troppo tempo, però è abilissimo, anch'io se fossi nel PD sparerei contro D'Alema, contro la Bindi, contro Bersani, contro il PD del 25%, mentre io sono il PD del 40%, però ripeto, se io fossi moderno, se io fossi al posto di Renzi, proverei una rivoluzione fiscale e culturale. La flat tax, l'aliquota unica, l'abolizione degli studi di settore, l'abolizione della legge Fornero. Sentivo prima che tu mi dicevi, dai, che poi parliamo anche degli immigrati. Ma il leghista può stare un'ora sulla Radio 24 anche senza parlare di immigrati, e non è che io mi alzi la mattina. No, vabbè, ma visto che Renzi ha parlato anche di questa cosa, Mare Nostrum, e visto che prima Emiliano ha tirato in ballo anche la questione immigrati, il tema c'è. Cioè è la cosa che non capiva di Salvini, no, Emiliano? L'aspetto che non capisce di battaglia della Lega. Secondo me nel suo animo, adesso io faccio lo psicologo e quindi sbaglio. Beh, adesso Matteo non ha questo sentimento come si è divertito da ragazzo, ecco, con queste goliardate, ma credo che adesso stia maturando verso una soggettività politica più evoluta. 24 mattino. Quando ottobre ci sarà una manifestazione generale. Ma stai scherzando? Ma puoi dirlo forte? Ma lo sai che dobbiamo chiamare tutti i giornali? Dovremmo trovare dei gettoni. Ma poi... i gettoni? C'ho il borsello pieno di gettoni. Ti dobbiamo trovare una cabina e poi te ne dovete davanti i gettoni. Vabbè, questa è Crozza che imitava Landini e la Camusso, e vedete che il gettone poi alla fine Renzi l'ha rubata da lì, la gag da Crozza, la Crozza che parlava del gettone, no, la Camusso, dobbiamo trovare il gettone per avvisare i giornali, simbolo di un certo vecchiume, simbolo di una certa ritrosia a guardare il futuro, e Renzi poi l'ha presa da lì, no, il gettone da mettere nell'iPhone. Siamo con Michele Emiliano, siamo con Matteo Salvini e siamo anche con gli ascoltatori. Filippo da Roma ci chiama. Filippo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Quello che volevo dire io, diciamo, vedendo quello che sta succedendo, è che in pratica in Italia la contrapposizione non è più tra le ideologie, ma è tra le cose da fare e le cose e le ideologie, appunto, le vecchie ideologie. Quindi questa, diciamo, questo cerchio nel lago che si sta allargando da parecchi anni ha investito anche il PD, e quindi all'interno del PD si sta creando una parte di gente che dice effettivamente queste sono le cose da fare, le dobbiamo fare, sì. E invece che si scontra poi con la macchina, cioè, tra l'ideologia e le cose da fare. E secondo lei, Filippo, esatto, Renzi le sta facendo queste cose che dice di voler fare? Le sta dicendo, e effettivamente senza troppe critiche ci rendiamo conto che un PD che parla contro lo strapotere dei sindacati, che parla pro sì, meritocrazia, sono cose effettivamente che non si erano mai sentite. Io, da elettore di destra, posso dire che queste sono cose che sono sempre state volute dalla sinistra, e che oggi invece qualcosa sente dalla sinistra. Grazie, Filippo. Andrea Modena da Petrit, giusto? Petrit. Sì. Buongiorno. Ciao Milan. Ciao. L'ascolto tutte le mattine. Bene. Niente, siccome che ieri il nostro presidente diceva che il 41, noi siamo il 41%, sì, lui si dimentica che quei 41% ci sono anche quelli del posto fisso che l'hanno votato, senza sapere che lui avrebbe fatto questa manovra qua poi. Cioè una manovra che non... Ma lei ha votato Renzi? Hai votato Renzi? Sì. Di dove sei, Petrit? Sono albanese. Albanese. Poi, io non posso svegliarmi. Ha votato Renzi perché c'è, ha voto in Italia, cioè insomma, italiano, cioè vota in Italia, sì. Sì, giovane, magari con delle cose nuove, però svegliarmi tra oggi e domani con angoscia di non avere poi il posto fisso che ce l'ho adesso. Sì. Cioè, non so se... No, ma dica, ha votato Renzi perché ha cittadinanza italiana, ha votato il albanese? Sì, c'ho, ah, perfetto, va bene. Grazie, Petrit da Modena. Salvini, ma Renzi vuole andare al voto? E se vuole andare al voto, voi siete pronti? Perché il centrodestra invece è un po', come dire, cioè Berlusconi sembra più renziano, è sulle unioni civili e con Renzi, è sulla legge elettorale e con Renzi, è sullo ius soli temperato e con Renzi. Beh, ma io non è che scelgo se andare a voto o meno, se so che vinco o non vinco, se ritengo che sia opportuno andare al voto, perché sul lato economico questo governo non è in grado di fare tanto, io ci vado anche domani mattina, perdo e chi se ne frega. In questo momento andrei al voto da solo, però ripeto, siccome l'Italia ha le potenzialità per ripartire, non è vero che dopo Renzi il diluvio, dopo Renzi la tempesta, molto probabilmente dopo Renzi in politica il mondo andrà avanti. Sorgerà il sole, vedremo la luna, la gente si alzerà, farà dei figli, andrà a lavorare, quindi non è l'ultima spiaggia. Io andrei al voto perché mi sarei aspettato più coraggio. Faccio un esempio a costo zero, che non costa. Il limite di spesa in contante è 999 euro. Perfino il Corriere della Sera la settimana scorsa ha certificato che ci sta facendo perdere milioni di fatturato e migliaia di clienti che vanno in Svizzera, che vanno nei paesi più civili dove uno con i suoi soldi fa quello che vuole. Ora mi dica una persona normale se pensa di combattere l'evasione fiscale imponendo l'uso della carta di credito o del bancomat sopra una certa cifra, sopra i 30 euro o il limite alla spesa in contanti a 1000 euro. Stiamo perdendo migliaia di clienti. Ma in paesi come in America è talmente normale usare la carta di credito anche per due, sì, per due dollari. C'è il limite di 10.000 dollari. Il limite di spesa in denaro contante negli Stati Uniti è 10.000 dollari. In questo momento la città dell'Expo, Milano, se arriva uno straniero a comprare una borsa che costa 1.001 euro e vuole pagare in contanti, si attacca al tram. Vi pare normale? Vi pare uno stato libero? Vi pare uno stato in via di sviluppo? A me pare il Congo. Il Congo? Non lo dica così, che sembra quasi un... Congo piuttosto che la Corea del Nord. La Corea del Nord. Visto che la conosce meglio del Congo. La conosce meglio del Congo sicuramente. Emiliano, la stessa domanda, ma vuole andare al voto Renzi, secondo lei? Ma non ho proprio l'impressione che voglia andare al voto. Semplicemente sta tentando di cambiare questo paese, cosa che l'Italia non è riuscita a fare rispetto a tutti gli altri paesi del mondo occidentale negli ultimi 20 o 30 anni. Quello che in Gran Bretagna è successo 20 anni fa, anche in Francia è successo 15 anni fa, anzi forse la Francia fa anche lei un po' di fatica, adesso stiamo tentando di farlo anche noi. Bisogna in qualche maniera spiegare agli italiani che un mondo è finito, lo ha fatto ieri con molta brutalità e rischiando molto, ma ha detto una cosa vera, non è che il posto fisso lo ha fatto finire Renzi, è finito perché obiettivamente adesso esiste un sistema del mondo del lavoro dove ci sono pochissimi garantiti e moltissime persone che non hanno nessuna tutela. Allora il compito del PD e credo di tutte le forze politiche sia di dare una identica tutela a tutti i lavoratori, in modo tale che le imprese, anche quelle che vengono dall'estero, sappiano con chiarezza qual è il sistema che viene adottato in Italia per favorire investimenti. Questo cambiamento è faticoso ed è fatto anche di parole, viene contestato il fatto che parli in un modo diverso e che ancora non sia riuscito a fare alcune delle cose che dice, ma mi pare assolutamente normale. Qui ci sono sindaci che dopo due o tre anni non riescono ancora a realizzare i loro programmi, figuriamoci il Presidente del Consiglio, e al governo credo non più da 9-10 mesi. 9-10 mesi, sì, più o meno. Quindi si tratta di un tempo brevissimo per qualunque impresa umana. Di fatto sta già accadendo qualche cosa di straordinario, come diceva Salvini prima, ha catalizzato totalmente il dibattito politico italiano e noi siamo tutti concentrati sull'agenda che lui in qualche modo descrive, sulla quale finalmente si può parlare di cambiamento. È un'agenda che cambia, è il lavoro di un politico. È un'agenda che però cambia spesso, voglio dire, ogni giorno ti sorprende con una cosa nuova. Abbiamo finito di parlare le ferie dei magistrati, dopo due giorni, zac, subito cambiare, mettere altra carne sul fuoco. Io sentirei Adriana da Bergamo, buongiorno Adriana. Buongiorno, ecco, io volevo intervenire per il posto fisso, sulla quale appunto Renzi dice che è assolutamente un'utopia, è vero. Lui un'utopia non c'è più, insomma il mondo è cambiato. Dunque è vero, io oltretutto sto parlando dal telefono fisso, forse se Renzi mi ascolta dirà che sono un po' più antica, che no, va benissimo avere il telefono fisso, perché... cellulare, internet, ho quelle cose lì che però io non è che non usi, però assolutamente mi sembrano, sono delle mie idee, mi sembra proprio tutto un po', non mi viene la parola adesso, e volevo dire questo, Renzi comunque il suo posto se l'è cercato fisso, senza votazioni, ripeto, io comunque ho votato Renzi, e poi lui ha anche deciso di andare via nel 2023, quindi lui si è preso il posto fisso, ha deciso di andare via. Ha detto faccio al massimo due mandati. Esatto, perché è giusto, insomma, lui decide lui per sé e si tiene questo posto fisso fino al 2023. Vabbè, ma adesso posto fisso, intanto, ma lei l'ha votato dove? Alle europee forse, visto che... Sì, alle europee l'ho votato, ma... E al 2018, se si candiderà, dovrà riconquistare il suo voto, ecco Adriano. Ah beh, certo, però insomma lui è proprio... Rimarrà al 2023 se gli italiani... Se gli è determinato voterà. Comunque che lui nel 2023, poi, ecco, volevo dire un'altra cosa, ha dato il posto fisso agli amici proprio, gli amici nei punti strategici, vedi Finmeccanica, vedi tante altre aziende statali. Adriana, lei quindi è un po' critica, da questo punto di vista, molto critica. Salvini. Salvini, però non ho capito la questione con Berlusconi, come si dipanna, cioè come si ritrova la quadra. Ma dipende da lui. Dipende da lui, noi stiamo facendo delle proposte. Ce lo vede un po' sbandare sulla linea. Vedo Forza Italia un po' in confusione, un po' in difficoltà, però l'abbiamo passata anche noi, per carità di Dio, abbiamo passato dei momenti difficili, adesso grazie a Dio, grazie al lavoro di tanti, stiamo coinvolgendo, proponendo, appassionando. Sicuramente non è inseguendo Renzi che puoi creare un'alternativa, non è parlando di Jussoli, di matrimoni gay. Io ho una proposta culturale completamente diversa sugli 80 euro, non è regalando 80 euro quando ti svegli la mattina che cambi la vita alla gente, alle neomamme dai una mano, si porta in Italia il modello francese così con gli asilini do gratuiti, che costerebbe esattamente la stessa cifra degli 80 euro regalati a Capocchia anche a chi potrebbe farne a meno di quegli 80 euro, quindi spero che Forza Italia esca in fretta da questo dibattito interno, perché il PD se lo può permettere, perché tanto al 40% controlla sostanzialmente tutti i giornali, le televisioni e quasi tutte le radio, mentre l'alternativa a meno voce deve avere più coraggio, sfidandolo, ripeto, sulle proposte concrete. Io inviterò il governatore Maroni, ad esempio, che sta rientrando dagli Stati Uniti dopo una missione di lavoro, se possibile essere disobbediente, perché noi fiscalmente? Sì, perché come Regione Lombardia, risparmiando, tagliando, riducendo, non assumendo e applicando i costi standard alla sanità, abbiamo messo da parte 500 milioni di euro per tagliare i ticket sulla sanità a tutti i cittadini lombardi, che cambierebbe la vita a molte persone. Ebbene, il governo si riprende quei soldi che noi abbiamo risparmiato. Cioè, lei sta dicendo i cittadini, la regione o i cittadini lombardi non paghino le tasse? No, la regione. Cioè la regione si tenga i soldi. Io mi ero impegnato nel 2015, volevo togliere i ticket sulla sanità in tutta la Lombardia, tutti, renziani, salviniani, e il governo con un colpo di mano dice: hai risparmiato i soldi, bravo, te li fotto. Non funziona così. Non funziona però così, le tasse si pagano a Roma e poi vengono distribuite alle regioni, cioè cosa si dovrebbe fare? Se le tiene... Ma la regione ha alcuni introiti diretti, ci stiamo lavorando, ci sono alcuni anticipi di spesa, perché non è giusto che questa manovra economica, al di là di quello che dice Renzi, anche qua puniamo gli sprechi, per carità di Dio, giusto. Regione Lombardia ha un costo per personale per cittadino di 19 euro a testa, Regione Molise di 177. Se tagli la stessa cifra Regione Lombardia e Regione Molise, fai un'ingiustizia, fai una scorrettezza. Quindi l'idea è rivolta fiscale, insomma, da proporre al governatore della Lombardia Maroni. 24 mattino. Allora sentiamo Carlo da Verona. Buongiorno Carlo. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Una considerazione velocissima: io ho fatto per 52 anni il precario, ho condotto una vita splendida, piena di avventure e mai piatta come i miei coetanei che hanno avuto sempre posto fisso. Secondo, una domanda a Matteo Salvini: non mi interessa quello che pensa in questo momento qua, ma nel caso di elezioni si allierebbe con Berlusconi? Salvini, se si votasse domani mattina, no, perché non c'è un progetto comune. Se si vota fra sei mesi, un anno, in questo frattempo la smettono di parlare di cose marginali, ci mettiamo d'accordo sulla flat tax, sulla legge Fornero, sull'immigrazione, sugli studi di settore, perché no? Però oggi no, oggi sarebbe no. Oggi no, insomma, se avete capito bene, deve rinsavire Berlusconi, questa è la linea di Salvini per un accordo. Salvatore dalla Spezia, buongiorno Salvatore. Buongiorno Milan, buongiorno Salvini. E anche io ho 42 anni, 20 anni fa sono rimasto senza genitori, lavando dei gran piatti nei ristoranti, ho portato avanti una laurea in filosofia, faccio il docente su concorso e ho il posto fisso. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non credo non che sul posto Massimo... fisso però il, non sul posto fisso è vero però lavoro, intanto come fai a farti una famiglia senza, io ho visto sulla mia pelle che senza le spalle coperte da qualcuno nessuno ti non puoi su accedere questo, a lungo. Salvatore, lei ha ragione su questo, guardate che oggi Derita, sociologo sul Corriere, dice è vero, non ci sarà più il posto fisso, ma certamente la precarizzazione che c'è oggi per i giovani è come dire la risposta sbagliata alla mancanza del posto fisso. Ci vogliono più garanzie, ma non per questo le garanzie le deve dare per forza. Io mi sono sempre adattato a tutto, guardi, ho fatto più lavori di quanti lei possa immaginare, però non ho mollato lo studiare. Beh, questo le fa, l'ha salvata. Ma ha salvato su un posto fisso. Oggi io ho una famiglia, sono contento, non sono né ricco né povero, però posso tirare a campare giornalmente, serenamente. Sì, ma guardi Salvatore, guardi che il posto fisso, anche chi ce l'ha, non so, questo Emiliano magari conosce la situazione, visto che è stato amministratore meglio di me, nessuno si può dire in questo momento, dire ho il posto fisso, ho capito, ma ci sono aziende per le quali c'era il posto fisso fino a ieri e il giorno dopo il posto fisso non c'è più, perché purtroppo la congiuntura economica porta anche a questo. È questo o sbaglio il discorso che voleva fare Renzi, Emiliano? Beh, innanzitutto Salvatore però ha detto una cosa importantissima, ha parlato della formazione permanente, cioè l'alternativa al posto fisso non è la disoccupazione, è una formazione permanente sostenuta dallo Stato che consente alle persone che hanno volontà e talento di cambiare mestiere senza distruggere la propria vita. È evidente che se noi passiamo da un sistema all'altro non possiamo buttare nel vuoto tutte le persone come Salvatore che hanno fatto sacrifici, che adesso hanno il cosiddetto posto fisso. Bisogna fare questa operazione con intelligenza. Credo che la piazza San Giovanni chieda questo. La piazza San Giovanni non dice a Renzi no, tu hai torto nel definire nuove regole del diritto del lavoro, dice solo che vanno affrontate differentemente e soprattutto applicando la Costituzione, cioè tutelando innanzitutto i più deboli. Ma lei non c'è andato, ma dove si sarebbe sentito più a suo agio? Sabato dalla CGIL o alla Leopolda? In tutta sincerità io sarei andato in tutti e due i posti ed era possibile andarci, perché ma questa è una risposta democristiana. No, non è democristiana, è la verità, perché io ero perfettamente a mio agio con la CGIL in piazza e dall'altra parte non c'era una cosa alternativa a quella piazza. Questo io insisto col dirlo, perché se dovessi scoprire che la Leopolda è alternativa alla piazza e alla CGIL, io non posso più stare nel PD. No, ma questo certamente, però voglio dire, è stata rappresentata come dire, o di qua o di là. Ma ci è un errore catastrofico. È un errore, secondo me si poteva stare da una parte o dall'altra. Salvini, vediamo, ecco, c'è la questione degli stranieri. No, ma glielo chiedo perché Renzi l'ha detto, Mare Nostrum salva i bambini, era una risposta proprio alla Lega. E allora su questo siete un po', visto che Berlusconi la pensa come di là, siete un po' isolati, ormai. Anche sullo ius soli temperato, ma che l'immigrazione clandestina vada fermata penso sia condiviso dall'80% degli ascoltatori. Credo il 100%. La nostra era una manifestazione contro, no, perché qualcuno dice accogliamoli tutti, c'è spazio per tutti. No, l'immigrazione clandestina è un dramma, è un delitto, è una forma di razzismo e di schiavismo che in primis va a intaccare i diritti degli immigrati qua regolarmente presenti. Non è così scontato essere contro l'immigrazione clandestina, perché c'è qualche fenomeno che fa i milioni di euro grazie all'immigrazione clandestina e alle parole buone in televisione. Detto questo, io penso che l'integrazione sia possibile se l'immigrazione è regolata e qualificata nei numeri. Gli immigrati regolari sono i benvenuti. Non diciamo che l'Italia esisteva prima ed esisterà dopo i fenomeni migratori evidentemente, però non questi numeri. Mare Nostrum è costata 1 miliardo di euro, ha salvato tante vite perché ha convinto tante persone a partire, perché poi aiutavamo gli scafisti ad arrivare qua. E partivano anche prima, partivano molti di meno, ma la cosa razzista è che in questo momento stanno ascoltando Radio 24 migliaia di presunti profughi, perché poi alla fine i rifugiati politici riconosciuti come tali sono solo il 10%, lo ricordino gli ascoltatori, quelli che sbarcano. Noi li stiamo mantenendo con colazione, pranzo, cena, sigarette e scheda telefonica in albergo fino a 1 anno e mezzo. È questo Emiliano Salvini che non le piace, no? Delle tante... No, invece devo essere sincero, quando all'inizio il problema è la storia, no? È chiaro che se si parte su un presupposto sbagliato si affronta il fenomeno dell'immigrazione in modo altrettanto sbagliato. Se la mettiamo in questi termini, credo che diamo ragione a Stefano Magnaschi, che sta seguendo la sua trasmissione Milan, sì, che mi dice: mi piacciono entrambi i suoi ospiti, Michele Emiliano e Matteo Salvini, ho un problema io oppure loro? Allora, è la verità, perché se smettiamo di servirci della retorica, sì, quindi se la smettiamo di dire Leun mangiate Run o stupidaggini del genere e affrontiamo il problema dell'immigrazione in modo serio, è probabile che la relazione con i paesi dai quali queste persone vengano noi, sia io che Matteo, la possiamo affrontare in modo corretto e trovare delle soluzioni, perché lui dice anche delle cose vere. No, no, però su queste cose vere fermiamoci, perché altrimenti sforo. Ringrazio davvero Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, e Michele Migliano del PD, che sarà candidato alle primarie in Puglia, alla Regione Puglia. Ci sentiamo domani mattina, 6:30, puntuali. 24 mattino.